E dobbiamo partire con tanta indiscrezione. E dovremo così metterci in viaggio. L'ora è fortuna, sai, vi vuol coraggio. Ma voi continuo mi farete nel viaggio compagnia. Farò quanto bravate, anima mia. Dunque faranno grazia, miei signori, d'andarsene bel bello coi lor fieri. Marchese par mio, suol sempre andar con tiro quattro almeno.